greatest rock and roll station in the world. It's Rock FM. proposito di ritorni quasi in line-up originale, anche per loro il 2007 ha visto la pubblicazione a nome di Cult di un nuovo album. Questa era Firewoman. Pianoforte dalla voce di Elton John, la sua Crocodile Rock, quasi un giochetto, uno scherzetto questa canzone, a quello che risulta essere uno dei nostri ultimi brani per questo appuntamento. Vi lascerò alle 12 insieme a Claudia. Doors. When you're a stranger, faces look ugly. When you're alone, women sing wicked. When you're unwanted, streets are uneven. When you're down, when you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down.

close. We're lost in one sweet embrace. Since those days the world has changed, but our love remains the same. God knows if I con un album che verrà pubblicato tra brevissimo, Journey, nuovo singolo After All These Years. Grazie per avermi seguito sino a questo punto, io vi rimando all'appuntamento di questa sera di Hard and Heavy 2021 e soprattutto domattina di nuovo insieme qua su Rock FM allo scoccare delle ore 9. Vi lascio con Claudia, vi ringrazio di cuore, buon proseguimento di giornata, di lavoro e di studio. Da Marco Gravelli è tutto, ciao! circumstances.